Il punto di Stefano Folli. Mentre la questione Berlusconi è ancora in un vicolo cieco e vi resterà almeno fino alla prossima settimana, si tende a sottovalutare un dato che invece è essenziale. Il premier Enrico Letta ha già fatto sapere che non accetterà in modo passivo le eventuali dimissioni dei ministri del centrodestra. Chiederà e ovviamente otterrà un dibattito in Parlamento e un voto palese di sfiducia. E questo potrebbe persino gettare le basi per un risultato opposto. Potrebbe cioè permettere uno sbocco istituzionale per la frustrazione di Berlusconi e alla fine, dopo un brutale scossone, riconsolidare la maggioranza. Siamo ai bizantinismi, certo, quelli che giustamente l'opinione pubblica detesta, ma non è escluso che alla fine di questi giorni confusi si arrivi a un nuovo patto delle larghe intese con alcune novità. Sarebbe un passo avanti verso il dopo Berlusconi, con qualche problema per il Partito Democratico che deve ancora fare il suo congresso.